Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Eccoci di nuovo con voi per passare un'oretta in compagnia e per porgervi un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Caro, siamo in febbraio. E qui il tempo corre, naturalmente noi dobbiamo stargli alle calcagna. Sì. Vabbè, dai, allora... Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e il numero di telefono per sms, consigli e proposte o altro, che è il 346 23 20 033. Ricordiamo sempre che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, e naturalmente non possiamo dimenticare di salutare il nostro regista e il nostro coordinatore. Il nostro Mirko, bene. Esatto. Allora, cominciamo subito con la prima canzone, perché poi stasera abbiamo un ospite virtuale, la signora Franca Turchetto, che ci parlerà. Beh, ve lo dirà lei di che cosa ci parlerà. Intanto ci ascoltiamo la prima canzone, che è intitolata Serenata Veneziana ed è cantata da Beniamino Gigli. Eccoci di nuovo in studio e adesso sentiamo la nostra amica Franca Turchetto. Ciao Franca. Buonasera. Ciao Gesi e buonasera a tutta l'equipe e a tutti gli ascoltatori, quei bravi e quei che non sono bravi ad ascoltare. Abbiamo annunciato la tua presenza virtuale, però non abbiamo detto di che cosa parlerai. Dunque, oggi, domenica, vorrei parlare della prima donna laureata al mondo, la nobilissima Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Mamma mia, quanti nomi! E dopo vi spiegherò, dai. Allora, adesso vi faccio, oddio, vi presento la figura fisica di Elena, perché c'è bisogno anche un fiantino introdurla sta fia, no? Sì. Dunque, è una lettura, eh. Era di statura media e ben proporzionata. Fronte spaziosa e piena di maestà, occhi scuri e penetranti, carnagione pallida e tutto il suo insieme colmo di dignità e grazia. Chiunque parlava con lei ne stava ammirato e preso di rispetto. Aveva ingegno versatile, prontissima nell'apprendere e tenace nel ritenere a memoria. Temperamento calmo, moderato e benevolo, si dedicava a tutto ciò che era conforme all'onestà, alla giustizia e al decoro, senza mai pensare neppure minimamente a cose meno dignitose e nobili per una ragazza. A distanza di secoli, questa descrizione fisica e morale di Elena sembra apparire idealizzata e accettabile, dicendo che già dal suo tempo era un prodigio. Ai posteri quasi increduli dell'esistenza di una giovane fornita di tante splendide qualità da superare ogni uomo e riuscirci inimitabile. Si conclude il tutto affermando a suo favore che se i greci si erano gloriati della loro Elena, tanto ammirata nel mondo per la sua bellezza, in quel giorno gli italiani si dovevano gloriare ancora di più della propria Elena come un nobile portento della natura. Un coro di applausi intorno a Elena andava propagandosi sempre più anche fuori Italia, a Lione, Parigi, Amsterdam, Lipsia e Antwerp, scrivendo sulla sua cultura e laurea. Bene. Questa è la cosa. Questa è Elena Cornaro. Cornaro Piscoppia. Piscoppia, che ha tutti sì, questi tutti nomi. E dove è nata, quando è nata? Adesso spiego un'altra cosa. Allora, io leggo dei brani di una poesia, di una poetessa spagnola. Questa poetessa ha scritto la sua autobiografia e si tratta di Suor Juana Inés de la Cruz, vissuta anche lei in quel secolo e sembra proprio scritta per Elena Lucrezia, e la studiosa diceva, o dice: «Nacqui nobile e fu questo il principio del mio dire. Ero portata allo studio fin dai miei primi anni, a tal punto mi applicai con tanto anelante ardore che in breve appresi il sapere, anche se esige lunghe fatiche. In breve tempo divenne il prodigio bersaglio dell'attenzione di tutti che giunsero a onorarmi come scienza infusa di laureo, con tanta saggezza acquistato. Il mio calamaio è stato il rogo nel quale mi sono bruciata». Bello. Immaginifica. Sì, cioè, è un tocchetto perché va avanti ancora. E adesso passiamo a Elena. Sì. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Ma quanti... ma dopo ciò ti mi domanderà. Tra i tanti primati, ce n'è uno che rappresenta una tappa significativa nella lunga e travagiata storia della emancipazione femminile. E proprio nella città di Venezia, che il 5 giugno 1646, nasce la prima donna laureata al mondo. Si tratta della nobile Elena Lucrezia Cornaro Piscoppia da Piscopi, sia della famiglia dei più vecchi e illustre casai veneziane, quella dei Cornaro. Suo papà era no un signor, ma di più, dato che nel 1363, nel palazzo Cornaro, cioè a casa sua, si sta ospita un personaggio importante, niente manco che Piero I de Lusignano, re di Cipro, che a nome dell'amicizia ha avuto l'onore di avere in prestito 60.000 ducati d'oro per i suoi bisogni personali, cioè il re se ne domanda gli schei al Cornaro. Oh. Il re, per riconoscenza, ricambia splendidamente il piacere con la facoltà di inserire nel stemma Cornaro anche quel regal di Lusignano. Perciò, oltre ad avere la corona e il suo stemma, aveva anche la corona da re. Ecco, di Cornaro, soprannominando tutt'al più Iu e tutti i suoi eredi cavaliere dell'ordine equestre di Cipro. E in più, regala tutto il feudo a Piscopi in Grecia. Perciò, sto feudo già era immenso, che c'era terreni, che c'era castelli, che c'era di tutto. Piscopis in Grecia, allora? Sì, Piscopis, ecco, il regno, okay, di Piscopis. Dunque, è passata da pari in pare, da pari in fio, sta eredità, e arriva nel 1575 al penultimo erede, che risulta proprio il papà di Elena. Perciò è cascata ben, sì, stasia, sì, no? questa nobile casata gadae repubblica, letterati, statisti e capi in arbi. 9 cardinali e, se non sbaglio, mi pare anche 4 dogi. Oh, mamma mia! E la vita privata di Patrizia, di Elena, è apparsa in isolamento e non gli interessava niente, né della ricchezza, né di schei, né del palazzo. E schiva e lontana dei fasti e della vita mondana, a quanto si sa, e addominava solo un desiderio: studiare, rinunciare al matrimonio, facendo voto di castità a soi 11 anni. Mamma mia, era emancipata, sì, era matura ormai, sì. Secondata da suo padre, però qua che c'è un interrogativo, se è proprio 11 anni, perché paradia che è sì se avesse dedicato, però a suo papà non glielo aveva detto. Ho capito. Però insomma mettiamola così. Va bene. E ora che diceva ella, se non studiassi, piangeria, e che dice sta piccola Elena sottovoce al suo serva di casa. Questo ne porta a conoscenza di una delle figure mini sconosciute nel lungo percorso della storia delle donne. Quella di Elena, che in epoca dove i mezzi servei femminili veniva spesso mandai nella clausura dei conventi, ma ella invece gli ha fatta vincere la resistenza del suo mondo e penetrare dentro l'universo culturale dominato dal sesso maschile. Elena Gavudo è il dottorato in filosofia. E femministe americane ha ricordato statosa, non promotrice del proprio movimento, ma fin dal 1976 e 79, ben 70 stai posti e istituzioni che la ricorda fuori all'estero. Pensa cioè, qua gli altri a Venezia, niente. Ora, pensa un po' all'estero. Come d'abitudine. Sì, ma ti vedi, però anche che a volte il mezzo survey andava fuori. Sì, cioè, sì, era infatti. Qua, però la sua mentalità, tutti i suoi studi, tutte le sue tesi, tutte le sue robe. Erano apprezzate all'estero. E se stai a ragionare, tolte d'esempio da queste femministe. All'estero, sì, sì. Suo papà, come già detto, già era l'ultimo della razza. E valorose e sue cariche politiche, tra quelle più importanti, del procuratore di San Marco, cioè la seria strada è la più alta carica dopo quella del doge. Sto suo papà. Quindi è una persona importante. Ma sì, te dico, dopo il doge che c'era giù. Ah. Uomo di cultura, anche io, e la sua biblioteca privata era una di quelle più fornite di Venezia. E per questo Elena trovava materiale per i suoi studi. Ed era dotata da appunto doti intellettuali, ed è stata subito tolta di buon occhio dal parroco di San Luca, dove che era la parrocchia sua, che sì, che è nata, sarà, no, battezzata non so, te dirò dopo. Ed era sto parroco più va un certo Giovanni Battista Fabris. Per di più era anche amico di famiglia e anche il confessore dea, no? Sì, sì. Che consiglia suo papà a farla studiare, sempre in privato. E a mentalità di quel tempo, decisamente contro le donne, e bastava pensare che di solito alla nascita il nome non veniva registrato, oppure il veniva sostituito con etera di donna. Ma perché? Perché le donne non dovevano studiare, e dovevano restare ignoranti, come che la religione nostra e tutto l'inizio del cristianesimo, le donne doveva essere in semenie. Dedicarsi solo alla famiglia e basta. Ah, ride Antonio. Sì, perché mi parla molto esplicito come termine. Allora, Gesè, a parentesi che dice, Anna femmina siense, perché? E a sappia cosa, gli si diceva, e perché? Dir ben no, gli diceva, anzi, far male. C'era eresia. Sì. Ma il papà di Elena, d'accordo con l'amico, esernisse per ella i mezzi studiosi del latin, greco, scienze naturali, matematica e lingue straniere come il francese, spagnolo, filosofia, teologia, grammatica, matematica, fisica, astrologia. Penso. E per l'ultimo l'ebraico, perché ella doveva studiare e tradurre tutta la Bibbia. Ho capito. È piccinina. Sì, sì, sì. Oltre ai suoi studi, E impara a cantare e a scrivere versi, e anche a cantare, anche a suonare versi, grazie ai precetti che aveva di una maestra di musica, la certa Maddalena Capei, che era ospite stabile di casa sua. Elena va avanti così con gli studi sotto la direzione di persone erudite. E dopo aver dato prova della sua cultura, il 30 maggio del 1677, insieme al custode della biblioteca Marciana, qui a Venezia, davanti ai nobili italiani e stranieri, e a domanda ai riformatori del studio di Padova di essere ammessa alla laurea di teologia. Perciò che si sta favorevoli a sta insolita richiesta do dottori parigini e de San Lovagno, su pressione dei professori padovani. E ora era d'accordo. Sì, sì, sì. Però, e qua arriviamo al punto stupido, che voleva il benestare del cardinale Gregorio Barbarigo, che era il più fettente di tutta l'università di Padova. Franca, un attimo solo, sì, che sì, ci sì, fermiamo sì, un momento sì, e ci ascoltiamo la canzone. Sì, sì. Bene, allora la seconda canzone in programma è cantata da Claudio Baglioni, Una favola blu. Una tavola blu, il mare con tante barche laggiù. Forse l'estate è già qui, c'è il sole ma non per tutti è così. Stesse facce vedrò, ragazzi che si ritrovano. Spiaggia quando la sera verrà. Una favola blu, il tuo amore per me. Penso e ripenso che ormai ho perduto te. Ed eccoci di nuovo in studio per un'altra tranche con Franca, alla quale lasciamo la parola. Allora, torniamo a Barbarigo. Ovvio che pensi che quello che mi adesso vi dico è una piccola presa di sal sulla storia di sta storia. Perché ciò è un romanzo, tutte le peripezie e poeta che ha passato. Perché ha avuto la possibilità di fare questi studi, di avere tutta questa gente che insegnava? Perché il papà era possidente, personaggio di spicco, poteva sì, farlo, perché come che sapevamo i mercanti di Venezia era ricchi, lavorava, che tanti invece dice che dava in giro, imbrogiava e rubava, quando che lui partiva con tutta la muda delle barche e gaere, i sonavi che partiva, e ora non era proprietari, gli toevano io. Perciò nel momento del noio di queste barche, di questa flotta di questi aerei che partiva, cioè lui doveva pagare le sarghe delle garanzie. Rischio d'impresa. Ed era rischio d'impresa, appunto, certo. Perché poteva darsi che tutte le merci che io riportava su una località, magari una che già era difficile perché la roba veneziana già era ricercata, cioè partiva da tutto il mondo per tornare roba veneziana, perché sapeva che gli apportava da posti che veramente mi era taroccai. Esatto. Ora poteva, sì, ora poteva succedere che il scambio magari poteva essere favorevole e delle volte no. Poteva succedere che una tromba d'aria in mezzo al mare o l'oceano si ribaltava tutto quanto e perdeva tutto. Poi reti, voglio dire, che anche Iuri aveva anche imbrogliato nel guadagno. Perché... Comunque grandi personaggi. Però c'era grandi personaggi, sì. Cioè eri che si iniziava a trovare dentro la cintura dei senza braghi. Far niente, giustamente. No, sì. Ti ha capito, bisogna, sì. Voglio dire, che dentro la storia bisogna essere che dentro con tutto, infatti, non con cattivetti. Bisogna rendere merito a chi aveva sì, fatto. Bisogna rendere merito, giusto. Perché ciò si sarebbe. Che ti pensi che proprio il Cornaro e Ori, che la famiglia ha, gli veniva fuori da agenzia romana il Cornero. Quindi stirpe antica, quindi. Ed era oltre che antica, era su Pampano, quando mi fermo un attimo col Barbarigo, sì. Io che penseno che quando, che adesso non mi ricordo più, io Elga avuto Elena di nostro papà che ad aver avuto, e adesso è stata la quinta figlia, perché dopo che ne aveva avuto un altro due e l'ultimo era un maschio, e quando è nato suo papà ha detto ecco fa se qua un altro è il nuovo paron, se arriva il nuovo paron. E dopo che si andà in baia discendenza, allora essendo ea diremo illegittima, non era sposato con suo mugello. Però che aveva un ben d'amati, innamorato come non so cosa, tanto se è vero che una non si, una non la ingraviava. Sì. Non che era corno, insomma, su che la famiglia era. Sì. E che ha toccato sposarla quando che si è diventata, diremo, che ha avuto la carica più importante del procuratore de Supra. De Supra vorrei dire di sopra. Ah, ho capito. Supra, infatti... dal latino supra, e che porta sopra in italiano, perché soprattutto io dopo il doge era io sola di tutti. Sì, ho capito. E difatti ti stavo chiedendo. Sì, cosa... Domandimi un'altra volta. mi hai preceduta. Ti ha capito. E ora Yuga aveva, diremo, il compito di sorvegliare tutta parte dei procuratie, diremo, e per diventare procuratore e andare a abitare nei procuratie vecchie di San Marco, e doveva avere a carica essere marità, perché suo mugello doveva diventare procuratessa. Se non era maritata, procuratessa non poteva diventare. Non poteva, allora tocca sposarsi e legittimare i fiori che erano nati sempre da Euridò. Però al di fuori del matrimonio, perciò Yuga vivesse non so quanti anni con sta donna senza maritarla. E tutto perché? Perché ea era una contadina. Era una bea donona contadina, bea florida, carne, bea bebè, insomma, che ha piaciuto un caparqueo. Sì. ma solo perché era contadina. Sì, però io c'è gatto questa, non l'ha mai muata, mai degradata, che ha sempre vissuto con ea in casa sua, ma non va bene, insomma. Allora, sto Barbarigo, cosa ha combinato? Torniamo a Lucrezia, sto che voleva, insomma, il benestar di Barbarigo. Barbarigo era vescovo. Ecco, sì, appunto, Barbarigo vescovo. Sì, era vescovo di Padova, in quanto era anche cancelliere dell'università, cioè aveva un'autorità maggiore, perché il cancelliere anche qui era una carica di una gerarchia che andava a gradi. Ecco, adesso ho capito via Barbarigo da che cosa proviene. Vescovo, ecco, sì. Vescovo, allora... Sto Barbarigo non vuol sapergene che una donna, dice, non può montare in cattedra. Niente da fare. Niente. Allora è anche se discussione. Dopo varie discussioni degli esperti, mesi dice sì, mesi dice di no, cagnara fra de ori, a un certo punto Barbarigo fa marcia indrio e si convince. Però l'accetta da Elena un'altra materia. Cioè? È la filosofia. Ah. Perciò una donna, teologia, non è pol insegnarla, cioè può essere laureata ma non può insegnare. Non può insegnare teologia. A cattedra no, ho ora. Capito. E era preparata anche in filosofia e accetta. E ora ella dice, no, e ora dice, sta regola prevedeva che al dottorando non che fosse presentato quando veniva a portare urne per abitazione, che fosse sta messo fuori di assaia. E si era messo su una capeta, su accesa, non so di che santo ha a Padova, e Maria dei Grassi, mi pare, è stata in silenzio finché veniva fuori l'esito di sua votazione. E ora dice che a un certo punto il Consiglio del Coeso ha annunciato che l'esame si sta superando a Lucrezia. Quindi diritto alla cattedra. Non diritto alla cattedra. Non era lo stesso diritto, perché se donna era che aveva la laurea, ma non poteva insegnare. Ho capito. No. Per il semplice fatto poi non poteva neanche insegnare, perché è un discorso. Per Elena, diremo, sapeva ben che dopo la laurea i patrici veneti, anche se laureai, non andava mai in cattedra a insegnare. A neanche gli uomini? No, gli uomini si sì, erano sempre donne. Solo le donne? Anche per rispetto della propria nobiltà. Ho capito. Se proprio non avesse avuto bisogno per vivere. Ho capito. Perciò ella sapeva i pericoli che andava incontro. Allora, insomma, dice che torniamo in votazione e dice che è inutile votazione. Per Elena non è stato concorso di voto, ma è stata era superare la prova per acclamazione popolare. Però. A son de batti de man e un coro forte di brava, brava! E ha e ha vinto, ecco, non il concorso, era passato. Dunque, il suo maestro gli dà e insegna i dottorali, no? Sì. Allora che dà? È il libro, la neo, la mantea di Ermein e la corona di alloro. In un autentico trionfo, fatto eccezionale che ha provocato una quantità di composizioni letterali che ha fatto le solite robe che fa adesso con Ghesè, l'università, che fa tutte che pagiassai, i veste, i tuo sì, in giro. Il tocco e toga. E anche che a volta è che sarà sta qualcosa, no? Alle origini. No, no, come ecco, allora, che ha fatto composizioni, ritratti, scrissioni allegoriche, distici greghi, latini, e come nobile però Elena non poteva insegnare. E dopo sta laurea a diverse accademie e ha questa come socia. Ora che sta l'Accademia Romana dei Infecondi, quella di Siena dei Intronai, quella di Brescia degli Eranti e do Società Veneziane. E a sua casa a sto punto diventa un centro di incontri. Scusa, allora a Brescia cos'era degli Intronai? Sta attenta, a Roma che c'era l'Accademia di Infecondi. Degli infecondi. A Siena, dei intronai, e quelle braccia di erranti. Erranti. Erranti. Sì, gli altri ho capito, che intronai insomma. E intronai, sono andiamo a Siena sì, e non sì, volete sì. Dove che sia l'accademia di intronai. Vabbè, aspetta Franca che ci fermiamo sì, un minuto, eh. Sì, va bene. Grazie. E allora la terza canzone è cantata da Massimo Ranieri ed è intitolata Erba di casa mia. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve sciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare, e mentre io ti insegnavo a far l'amore, come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Ah! mia. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto e poi un bel mattino ti svegli con la voglia di ritornar bambino. Eccoci di nuovo in studio, ecco la nostra Franca. Sì. Ah, ti è piaciuta Franca la canzone? Sì, Erba di casa mia. Sì. No, dicevo Antonio che mi dà un'immagine bellissima di un giorno di primavera. Sì, questa... manca di serenità. Di serenità manca, proprio, sì. Va bene. Allora, dunque, qua venimo e nel suo tesi di laurea, che ha incantato tutti quanti, e che fa un discorso sul saggio di Platone. La Repubblica proprio di Platone. Sì, sì, sì. E ora ella dice, e ricorda un passo che va fuori dal libro di Platone. Ora Platone, e ella dice che Platone ha detto questo, ah. Sì. Se avemo da usare donne per gli stessi scopi di gli uomini, dovessimo dargli anche gli stessi insegnamenti, trattandole a pari. Nel silenzio generale del momento di interrogazione, e cita un altro passo di Platone, che va fuori dai leggi, perché c'è su Platone che avrà scritto tante ordinanze, adesso sì, queste sì. Quasi che vai via dai leggi di Platone. Ora dice, el legislator ga da legificar par intiero e non solo a metà, disinteressandosi del sesso femminile e curarsi solo del maschile. Qua che nasce un quesito a ea che nasce un dubbio. E doveva contentare suo papà per aver tutti i costi a laurea o a ubbidire la volontà del cardinale che gli negava a nome della congregazione ecclesiastica? E a ricordare ora, ricordando quanto San Tommaso diceva riguardo le donne sapienti. Sentiamo. E donne non è abbastanza sagge. Pare il mestiere da mascio e donne che ha ricevuto il carisma della scienza solo per uso all'insegnamento privato, cioè far da mare, educare sì, noi. Educando e basta, educare. E donne che abbia da essere contente ai doveri del sesso matrimoniale e che ha sei uomini quelli del sesso materiale. Vivere, diremo. Nessun sì. Che gabbia, oh, zirito. Sì, vabbè. Tu casi San Tommaso, ah. Sì, sì, San Tommaso. Non sapeva niente. San Tommaso, sì, sì. Ecco, e dice, una donna, no, nessun che gabbia serveo quanto una oca, voria mai per mugger una donna abbie nel dono del saver. Femmine letterate, dice io, misericordia, venia piuttosto Lucifero, che sarebbe più pace. Ma difatti, Franca, anche sì. Adesso dicono che sì. Dicono sì. Che l'uomo preferisce la donna. Sì, gnocca. E dopo ella gliene ha fatto un altro sulla Repubblica di Venezia. Ah. Sì, perché ha fatto una lode. E ora ella dice, sempre in un momento di attesi, no? Sì. E ora ella dice, i nobili veneti non scampava mai dal sacrificio imposto dalla guerra per darsi ai piaceri carnai e a buona cucina. Sì. notte, sì, sì. E a patria così andava, e andava fiera di saggezza dei suoi senatori e del valore dei capi militari. Ste quasi stai due categorie di cittadini che gassavesto convivere al punto che al momento del bisogno i geni insieme. Ti ha capito? I sega sempre aiutare nobiltà e militari. E militari. Come sì. Che si cambia i tempi. Sì, ma ti vedi però, è Pico Elena che città sto dopo. Sì, sì, sì. Dopo è dice, è Pico e Venezia si è diventata una gran repubblica. Grazie a concordia tra il voer militare e a saggezza politica di chi gestio, insomma, invece al contrario, Roma, da capitale del mondo per mancanza di concordia, è sega ridotto in un muccio di rovine, sapegare da chi va a visitarla. E questa è Zeretto Zeta. Sì, questa ragazza che ormai, era più grande. Sì, te dico, e Agadà anche queste due versioni sulla Repubblica di Platone e sulla Repubblica di Venezia. Di Venezia. Allora andiamo avanti che siamo già finiti. Sì. E a sua casa a un certo punto diventa centro di incontri con illustri personaggi. Però un anno dopo è sua laurea e si trasferisce a Padova nel suo palazzo Cornaro. Dove che sei a Padova ancora? Corte Cornaro. Dove chi fa anche dei recite, mi pare. Mi pare di aver sentito. Sì, dove vive gli ultimi anni della sua vita. E ha scritto che dopo la sua morte i suoi elaborati venissero distrutti e resta solo quei pochi salvati da suo papà e da qualche studioso. Se resta quattro discorsi accademici, un des elogi, sia epigrammi, cinque sonette e una lode dei discorsi accademici, se ricordata nel primo in lode della Serenissima, quella che ho appena detto adesso. Sì, sì, sì, sì. Ma quindi è morta prima il suo papà. Sì, sì, sì. Ste opere esista elogiae da Benedetto Croce, che la porta a segnalare e adottissima Elena tra i letterate del 1600. Nel 55 ella dimanda il permesso di portare sotto gli abiti di Patrizia quello nero dei suore benedettine, facendo voto di castità come oblata, pur vivendo in famiglia. Ella si era già iscritta a questa congregazione benedettina, sì, sì, sì. Tanto è vero che andava a fare delle visite di abitue, certi conventi, specialmente anche a San Giorgio di Venezia, ed era tutte opere di carità. E faceva come di seminari, sì, sì, di carità, digiuni, era diventata una mesa deficiente dopo con tutta la sua cultura, perché c'è dei biografi che ha scritto qualcosa su di ella e dice che tutta la sua gloria, tutta la sua sapienza è andata, diremo, buttata a fumo con la superstizione religiosa. Molto probabilmente era diventata una fanatica religiosa. Sì, fanatica, forte, sì, perché integralista. Integralista, forte, perché io del matrimonio non voleva sapere niente. E io, difatti, si era deciso di andare a fare queste visite e iscriversi, che poi dopo tanti biografi dice che non si neanche vero, perché aveva superato l'età, cioè e doveva essere iscritta a un'età minore, dopo un'età più superiore, ma aveva già passato tutti i due tempi d'età. Sì, sì, si è iscritta a Antonio Oblata, pur vivendo in famiglia. Nel mio sì, è che nasce l'idea di ritirarsi in convento, ora, ma è suore, per compassione a suffragi e salute, non gli avvolge perché era diventata un scartoso, non era più ea. A forza di ma da forte sì. E a sua malattia e a sua fragile e fibra stava cedendo nell'assalto dei miei disturbi che minacciava. Ed era colpita da freve scorbutica, travasi biliari, freve purpurea e da una violenta nefrite che nessuna cura, neanche le acque minerali del Monte Ortone, non le conferiva. Ma gli aveva un po' tutte, sì, perché... Sì, sì, perché lo scatenamento dopo... di vari lo scorbuto, sintomi. Non è un... sedimento fisico anche... Scorbuto, sì. Sì. Parassita. E a salute di Elena si fa sempre più debole e sempre più vicina alla morte, che finisce a 32 anni. 38 anni, dai. 38? Comunque giovanissima, non sì. Giovanissima, cose, sì, sì. Dopo della sua morte si ricorda due episodi curiosi. Ella vuole essere messa dentro una bara costruita con legno di un cipresso, cresciuto nel suo giardino a Padova. Ella vuole essere seppellita in Santa Giustina, tra mezzo e tombe dei monaci benedettini, perché già era quei che ella Sì, seguiva. Sì. Roba strana, dice che una giovane in vita non aveva con il suo uomo e in morte aveva riposato in mezzo agli uomini. Sì. E il suo corpo si sta vestito con l'abito dei oblati e a testa incoronata di alloro, interessata da candidi gigli a ricordare il suo dottorato e la sua virginità. E il 28 di luglio, in presenza di 37 membri del collegio dei filosofi e dottori dell'università, gli ha reso omaggio a ea che era diventata la gloria e l'onore non solo del collegio ma di tutta la Repubblica. Elena Lucrezia Scolastica, perché era oblata e aveva il nome Scolastica. Sì. Ecco qualcosa che prima... Ah. E assemi, dunque Elena Lucrezia Scolastica, Cornaro, Piscopia, e si ammira nel scaion che porta e loggia nel cortile antico del Bo, una bella statua che in origine era stata costruita per il mausoleo fatta fare da suo papà nella Basilica del Santo, che nel 2007 è stata trasferita all'Università di Padova. Un'altra vittoria della giovinetta in morte, l'unica statua di donna in quel tempo del saper, che trionfa tra tutti i mesi busti, ricordi, insegne, che parla esclusivamente al linguaggio maschile. Non capito. E questa è la fine della Benedetta. Beh, adesso aspetta un attimo, sì, che è da po'. Un personaggio straordinario, effettivamente, coraggiosa per l'epoca, ma anche, sì, anche se resta coraggiosa anche adesso, quasi per quasi quasi. Mi vedevo a conclusione mia, se anche perché aveva la possibilità di farlo, se non paura magari, certo, che certo, ha le capacità intellettuali, ma non i mezzi di sostentamento. E moni di andare avanti, ti ha capito. Certo. Dio denaro, vabbè. Spero che sia piacesto, insomma, sta fare le cronistorie. Sì, penso molto interessante, molto. Decisamente. Adesso ci ascoltiamo la canzone, poi torniamo da te. Sì. Ecco. Sì. Allora, io vorrei fare una piccola dedica a una cara amica che penso che delle nostre trasmissioni, Antonio, non ne abbia perso neanche una. E brava! Un abitué proprio. Sì, sì. E vorrei dedicare a questa ascoltatrice, e so che penso, anzi sono convinta che le piacerà, Wanda Osiris in Talmente Uomo. Sei talmente uomo da non capire niente di quello che c'è in me. Quelle che rubi sulla pelle sono le mie paure e non i miei perché. Se ti parlo di una rosa, certo tu sorriderai, perché in lei c'è qualche cosa che tu no, non vedi mai, non cogli mai. Donna, io son talmente donna da esser più felice se piango un po' per te. Quelle che rubi sulla pelle sono le mie paure e non i miei perché. Se ti parlo di una rosa, certo tu sorriderai, perché in lei c'è qualche cosa che tu no, non vedi mai, non cogli mai. Donna, io son talmente donna da essere più felice, se piango un po' per te. Ed eccoci di nuovo in studio con Franca per un'altra tranche. Sì, anche lei è laureata nella sua materia, perché non ne resta nessun'altra come io. Chi? La Wanda. Ah sì, guarda, veramente. Sì, ma hai sentito come canta? Ma certo. Che, in che modo canta? Sì, che personalità sì. Che ha? C'è unica, ti dico, laureata nella sua materia. Qui, qui esalta un po' le carenze, sì. Le carenze dell'uomo nei confronti della donna. Ascolta, che prima... No, dimmi. No, prima... adesso mi pare che volevi parlare ancora di qualcos'altro. Sì, volevo dire che prima mi godo smente che ha godito il maestro che ha consegnato e insegna del suo dottorato. E ora torniamo un piantino a specificare. Il libro, diremo, significava yoga da come ma maestra. Significava l'insegnamento che ella doveva fare, no? L'aneo, yoga da... come simbolo, come combattente vittoriosa nella competizione filosofica. E a mantea d'Ermein era simbolo di dottori. E a corona di alloro invece era simbolo del trionfo. E il dottor che gli ha dato queste robe ha detto a ea: no gloriarte massa nell'antichissima corona che te ha dato casato, perché cioè era ricca, aveva la corona del re de Cipro, de no? Cipro, sì, sì. Né de quea che in sto giorno radioso te metto in testa, par volontà di Apollo, te suo dai muse, ma bagnata dei tossuori, infatti te ne sei riservata in cielo un'altra straordinaria e tanto sublime. Ah, pensa. Così, sabato 25 del SIE del 1678, si è avuta la prima donna laureata con regalato del Sacro Collegio della nostra università. Bene, ecco, questa è una roba in più che ha detto l'esortazione. L'esortazione. Dopo che sei nata più che a testimonianza dea. Sì. Nella gran sala della biblioteca del Vassar College, una delle prime università liberali degli Stati Uniti, sì. Fondata nel 1861, su una località 75 miglia da New York, il produttore di una birra, con scopo di garantire ai donne una formazione pari a quella prevista per gli uomini, e che dedica una vetrata policroma che rappresenta Elena Lucrezia mentre discute la sua tesi al cospetto della commissione esaminatoria. Bene. Addirittura in America. Pensa un po', ma pensa che popolarità, che... Ecco. Che... Oltre che popolarità, sì. Anche considerazione. Sì, considerazione. Certo, più che non certo, guadagnare. Certo, sì. Certo. È nata nell'aula italiana della Cattedrale del Sapere presso l'Università di Pittsburgh, un grande affresco dipinto del 1949 nel centro è la figura di Elena Lucrezia. Anche, ma pensa un po'. Sì. Sì, però deve aver fatto una vita... No, poi dite che ha fatto una bella vita per una parte, però dopo si è massacrata. Si è massacrata perché si è massacrata. Quel fanatismo appunto che... E dopo che affissa che aveva per religione... Appunto questo fanatismo. Che... Sì, perché appunto gli diceva proprio che era anche un fiantin, ammissiava un fiantin, diremo... E a Regione e ammissiava con la superstizione dopo. Sì, perché dopo quando diventano così fanatiche non hanno più. Ascolta Franca, sì. Pensi che la faremo la prossima volta o vuoi dire due parole sulla Luisa? Bacca. No, c'ho cioè, Luisa dobbiamo fare la prossima volta perché bene. Da dove riesce che tanta roba anche è. Ah, ecco, sì, da nostro... mezzo a. La faremo bene, la prossima volta. La conclusione di questo, se giusto. So, guarda, sì, se mezzo, perché un'altra roba, guarda, un'altra piccola rubettina di Elena, sì. Testimonianza di qualche biografo, dice che Elena pregava ore interminabili e faceva lunghi digiuni, macerazioni del corpo con cilici e altri strumenti, penitenza, vede espiatorie, lemosine senza limiti e a se vestiva trascurata. A che scopo, dice? E a mente di Elena c'era in balia a un mischiamento tra religione e superstizione. Sì, se resta meravigliai come può ridursi tutta la sua cultura e non ribearsi. La sua devozione preferita era verso il crocefisso, l'Eucaristia e la Madonna, l'angelo custode, San Benedetto e le reliquie dei santi. Benedetta e amara come chiede. Ma poveretta. Comunque ha fatto una bella vita da una parte perché era una studiosa. Una bella vita. E ha avuto anche. Però cioè, penso che insomma. Guarda, perché ti pensi che quando chi ha saputo papà, se ho tempo, se no ho finito. Fai. Suo papà, che a proposito di biblioteca che aveva, veniva gente da tutti gli stati d'Europa a studiare Ghessora. E difatti, Ghese sta, non so, quella piccola poesia che ho parlato di chi ha suora spagnola. Sì, sì, sì. E ha già venuto a conoscenza di questa studiosa qua, perché ha già più età, sta suora avrà 30 anni di più. Sì, sì. E ha mandato un emissario, diremo competente, appunto a informarsi con una lettera di congratulazioni che a sta età di sta suora si era sempre curata, che anche è insomma più o meno o maridarsi o da suora, e ha preferito andare in convento perché maridarsi non aveva nessuna intenzione, perché appunto la aveva contro l'odio degli uomini che aveva contro le donne. Sì, sì, sì. Perché era anche bella sta suora, diremmo, sta son Juana della Cruz. Questa è la suora spagnola, sì. Molto sì, bella, sì, sì. Una bella suora. Ciao, vada, e a Elena, si è morta, mi pare, aspetta. E a Zenata, ea, nel 1745. E amor nell'84. E ha finito l'esame al 25 di giugno, chissà perché. Perché doveva farlo al 13, siccome che era Sant'Antonio e che era messa confusione per strade, è che spostava l'esame. Beh, pensa in quell'epoca parlano di confusione, se fossero qui adesso. No, so. Sì, ma ti dico, io doveva farlo il 13, dopo il 26, dopo la chiesa è stata, lo che finito il 25, dopo il 28, ha avuto tutti i suoi elogi, però sì, insomma... Sì. E era un'attosa favolosa, insomma, però a morire 33 anni, 38 anni. E insomma... Sì. Sì. Gavara vuota, 2-3 anni di malattia, sa. Ma è facile, anche perché a quell'epoca c'era anche la tisi, c'erano tante sì, di quelle cose. Sì, e difatti aveva anche quella, poi che venivano fuori altre robe brutte, insomma, poveretta non andava più via col cervello. Ormai il fisico era, quando sei debilitata fisicamente sei anche debilitata. Però guarda che onore che aveva da sì. Al studio. Sì. E dico, pecca, perché che si sta una signora che non conosce, conosce il suo nome appunto, o non so chi sta, che ha contestato che a Venezia non c'è nessuna via dedicata a donne. A Venezia non può essere vie come che abbiamo qua in terraferma, perché i vie e i cai di Venezia sono tutte dedicate all'arte e ai mestieri. Però che c'è solo una targhetta piccinina attaccata sul portone della sua casa. Ah, ecco. Qui nacque, visse e morì. Ah, ho capito, sì, non sì. Che, non so dentro il palazzo se suo papà che a volte che ha messo... Insomma, è roba interna, non ti avevi. Eh beh, chiaro, se non entri... E non è stata messa sui 75 statue del Prato della Valle, perché io praticamente non aveva studiato all'università. Ah, era studiato privatamente, perché statue di Padova sì. Sono tutte persone native, abitanti, e che ha fatto l'università. Sì. Che ne cadesse uno o due esclusi, non so adesso il motivo. E hanno che sei a cosa, e a Gaspara Stampa. A Gaspara Stampa, sì. E a Ghesè. Sì, sì, insomma, è stata esclusa anche, poveretta, dalle statue sì, del Prato della Valle. Sì, via quella del Bob, perché aveva un bel monumento che gli ha fatto per suo papà, che prima ho dito che nel 700 io cava via, perché gli dava fastidio all'entrata dell'altar dove che va a fare processione con Sant'Antonio, perché era monumentale. Eh beh, sì, perché... Vabbè, ma da me tocca che c'era. Appunto, ma sai... E in Santa Giustina, in mezzo... Tutti i preti, perché qui era il suo... Il suo desiderio. Il suo desiderio. E ora adesso vi dico l'ultima roba che non ha niente a che fare. No, che se qua. Dunque, mi, in sti giorni, ho sentito che c'è un studioso che non so se lo ha già terminato o è in fase di terminare un libro che parla delle donne veneziane. Ah, bello. Fra le quali c'è anche Lucrezia, perciò io vi ho dato un'anteprima prima. Benissimo. Del libro. Benissimo. Bene. Bene, Franca. Se ne è roba per me. Cioè, certo, così dopo, dopo ci parlerai. Vabbè, dopo... No, ma ti dico, verità... Sì, sì. Prima del libro un accenno, un accenno, ecco. Un accenno Bene, Franca, sì, noi ti ringraziamo. Io vi ringrazio voi altri. Ecco, hai fatto un bel intervento. Ma come al solito. Vedremo, resto. Dai. Ecco, sempre molto interessante. Alla prossima volta. Va bene, vi alla saluto prossima. E grazie per la vostra pazienza. Che... No, no, no, è stato bello. Ciao, grazie. Franca. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Bene, ringraziamo la Franca. E cosa fai? Facciamo Antonio, facciamo in tempo una canzone? Cosa una dici? Canzone, decisamente. Sì, ecco. Sì, sì. Allora ti ascoltiamo la quinta canzone in programma, che è cantata da Alan Sorrenti, Non so che darei. Ricorderò sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me. Non so che darei per fermare il tempo, per dormire al tuo fianco su una notte. Non so che darei per sentirti mia, per tenerti vicina su una notte. L'amore che sento da sempre per te, in fondo all'anima non so perché, io vorrei stringerti ancora una volta. Allora siamo così di nuovo in ritorno in studio e completiamo la nostra serata con un argomento che va per la maggiore, che è l'argomento del carnevale. Dal libro Par modo de dir di Gianfranco Siega, storie, leggende, aneddoti, curiosità intorno ai modi di dire del nostro dialetto, che è più che altro veneziano naturalmente. Andar in bauta. Nella tipica ed elegante maschera usatissima a Venezia nel 1700, in verità la bauta non potrebbe essere definita maschera in senso tradizionale, come quelle del carnevale, quanto piuttosto schermo, travestimento. Era infatti usata dai nobili che frequentavano i casini di gioco, ma per giocare d'azzardo, specie sulla parola, bisognava essere ben conosciuti, ed eccezionalmente anche da donne che non volevano farsi riconoscere. Ad esempio la monacata per costrizione Maria da Riva, che si faceva accompagnare per feste e ridotti in bauta dall'ambasciatore francese de Frulé. Ma la cosa fu presto risaputa e suscitò un vespaio. La bauta era composta da un tricorno, da un ferraiolo e da una mantellina partente dal capo e ricoprente le spalle. Propriamente la bauta, detta anche velada.